Poi ce l'ha pure il briglio, io non ne ho voce trombetta, ce l'ho normale. No, insomma, che c'hai tra i tuoi megafoni? Se non vedi che c'è megafoni, si fa quella. Perché sto parlando da lontano, guarda adesso. Te fa dire la già megafono, ti fa. Sì, c'è lontano il mobile, cioè, perché non c'era nessuno. Cazzo, io lo accendo e non c'è fa nessuno. Io ci sono alle 7:15 e non c'era nessuno. No, io ero qua guardando dei ragazzini che erano in venne un macello. E ero affacciato al poggiolo. A differenza di un paio di mozzi, pensate che ti ha aggiunto. Ha fatto dei problemi reali in Italia. Vabbè, come ti al mare sei andato? No, non c'è andato manco una volta al mare. Dovevo andare, poi c'era, siamo andati con l'asciugamani e tutto, c'era vento, siamo andati verso Valle d'Uria. E allora abbiamo deciso di andare in un parco che c'è in una montagna vicino a Valle d'Uria, c'è un parco grande, dove c'è la montagna, il fiume che passa sotto, bellissimo, mi fui fare trekking, c'è natura, tutta una boscaglia, guarda, bellissimo. No, lo so, ci sono già stato io lì. Ha arrivato pure un bikinicchi in TV. È vero, perché ci sono i tavoli, sì. Siamo andati lì, siamo andati e siamo stati bene, dai, il vento era riparato dagli alberi e qui eravamo giù verso il fiume, siamo scesi, non so se tu sei sceso dove c'è il fiume. Sì, la Puglia. Che ci abbiamo anche guardato. Ho fatto una corrida in Chivi a Ciappa Mini Buddy. Senta, mi ha fatto corrida. Oh, e poi sopra c'era una specie di chiosco, abbiamo preso il caffè lì e poi c'era il cannocchiale per vedere tutto il panorama, si metteva un euro e ti vedevi tutto il panorama dall'alto. C'è il cannocchiale, c'è. No, già è bello, sì. Caspita, è tenuto anche bene. Beh, si paga adesso per i tavolini, 10 euro. Oh, a pagamento non li buco. Cazzo, prima non era così. Prima ti mettevi e mangiavi. Ma adesso bisogna chiedere permesso a quello del bar, ti fa pagare e poi puoi anche andare allo stile a fare. Ci sarà anche il barbecue. Sì, i barbecue c'erano anche prima. Sì, ma io ti fa vedo di 3-4 anni fa. Poi hanno messo apparecchi per fitness, per fare ginnastica. Abbiamo fatto ginnastica, c'era la cicletta, c'era cose dove ci dovevano piccare, sollevare, insomma, c'erano tutti gli attrezzi di palestra. Sì, sì, no, già è così, sì. Già è bello, sì. È abbastanza bello lì. Poi è ben riparato anche. Ma la strada è brutta, che è troppo fila per essere una strada a doppio senso. Secondo me fa la curva di cui bullarsi. Sì, bisogna stare attenti, secondo come fai la curva lì è pericolosa perché te ne viene in alto la macchina. È stretta, una bella strada, però poi arrivati al posto si sta bene, dai, siamo stati bene, siamo stati tutta la sera lì, abbiamo cantato, fatto, poi abbiamo conosciuto una coppia di tedeschi che avevano lo Yorkshire, si è avvicinato a me, ha cominciato a piangarmi, deve essere sentito l'odore del cane, io l'ho accarezzato e cose, è stata tutta la sera attaccata a lui. E vuol dire che l'eri simpatico. Andiamo bene, andiamo. No, anche il cane del bar, che era un bastardino, piccolino, bassottino, si è avvicinato. Meglio tenerli sempre in allerta che si muro. Già bellissimo, sì. Ci sono stato io 4 anni fa, ci sono stato. È un bel posto. Poi siamo andati a mangiare in un ristorante lì a Valle d'Uria e poi siamo andati. Già siamo stati bene. E si mangia bene anche in quel ristorante lì. E a voglia. Poi c'è tutto. Ti puoi fare dai panini alla ristorazione, c'è tutto, pizze, ristorazione, panini, di tutto di più, quasi, dove sono andato io. Sì, è così. Purtroppo. Come andrà? Oh, oggigiorno a Ciappi di Duttu. Ciappi di là, Ciappi di Duttu. Non manca niente, lo dice, sono ben attrezzati. Ma comunque quello è un bel posto, non l'avevo mai visto, sinceramente. Non sapevo manco che esistesse. No, a me mi ha portato mio genero, perché loro ci sono già andati e mi ha portato lui lì, mi ha portato. Ed è bellissimo come posto anche. Tipo come Sant'Antonio, ma è andato ci sia? Sì, sì, ci sono andato sì a Sant'Antonio. E aurie, dai! Sant'Antonio! Andiamo ora! Oh! Vado a parte andando a Nuoro. No, io sono andato a Sant'Antonio di Uri, che ci sono le panche, ci sono i giuchi, si può arrostire, addirittura c'è la legna tagliata per arrostire, c'è tutto quanto, e si chiama Sant'Antonio di Uri. Ah, è il pezzo di sopra, a parte di su, dove c'è quella casa tutta... Anzi, è rimasto lo muro, è rimasto, solo. No, no, non è lì. Allora, c'è una fonte prima dell'entrata, c'è una fonte grande dove tutti prendono l'acqua, poi si fa la strada di campagna e poi c'è l'entrata. La macchina la devi lasciare fuori, puoi entrare solo a piedi. E ci sono tutte le panche così per arrostire, lì che ha alzato la pietra e c'era la biscia. No, non ci sono mai andato lì, io sono andato quello di Coso, andando a Nuoro. C'è il posteggio grande, posteggi, e ci sono tante panche, ci sono dentro. E ne trovi quanto ne vuoi, ne trovi. Tutto fatto, si può dire, una vallata, e ci sono tanti tavolini. E mi pare che sia andato anche lì, lo sai. Mi pare che sia andato anche lì, sono andato anche a Sette Fuentes, lì. Anche lì è bello. Alla fonte sono andato anche giù nella vallata. E io prima ne giravo di buse, perché avevo un amico che lavorava alle poste, praticamente era il vice direttore delle poste, no? E quando andava le crisi del paese diceva, ma c'è qualche cosa del suo paese di bello da vedere? E diceva, sì, c'è qua di vada lì, eh? E noi andavamo, capito? No, ci sono andato anch'io un sacco di posti. A Coso anche su, come si chiama? Ma abbiamo fatto tipo il Redentore, però mi sembra che più giù rimane più giù. Ed è una foresta lo stesso. Ah, che c'è la casa della foresta lì in legno, ma a Nuoro sei c'è. Ah, no, vicino a Nuoro, però se sei su una montagna devi salire su a piedi, devi salire. E la macchina deve lasciare gli ossi. Poi ti va la passeggiata a Baffarà. Lo so, e poi sopra c'è la casa della forestale, ci sono andato anche io. Poi sono andato in un posto dove c'erano i caprioli. Si vedevano i caprioli, si avvicinavano e tutto quanto. Adesso non mi ricordo dove cavolo sei, lì oppure da qualche altra parte. No, io lì l'unica cosa che ho visto è i cinghiali, ma non ci ho altro. E i cinghiali sono da tutte le parti, anche in città li vedi. Questa crisi verso le 9, un po' vicino a casa, se ne vanno anche sotto al portone. Chi si è chiamato a mangiare puro? Allora, una volta eravamo in via Volorma con te, ho cominciato a mangiare, io non capivo perché, mi giro e vedo, cazzo, 9 cinghiali c'erano, 9, c'erano padre, madre, figli e poi figli ancora più piccoli, tutti quanti in greffa, correndo, pari di gas e caprioli, correndo. Cazzo, oggigiorno questi animali in città c'ha pane che mangia, purtroppo è di così. E ho capito che trovano a mangiare facilmente, invece di stare a cercarlo e cose lo trovano. Vanno nelle ciotole che mettono i cani fuori in campagna e gli rubano la roba. Tutti si mangiano, qui si rimangiano come ti rubuco. Fate così, tanto altro non che fa altro, state negli eredi ma se facciamo mangiare. Vicino a casa, in piazza della Meridiana lì, ci sono le gambe, stanchi, mi diventano le macchie di Baregliane, capito? Vanno lì a mangiare e poi scendono giù verso casa. Scendono alla discesa e vanno verso il mio portone, tutto di fronte. Infatti fanno così, si cercano di mangiare dei colleghiani e ci fanno matti. Io li avevo visti in via Milano, li avevo visti. Poi c'era un albero di ghiande e si sono portati i kiwi, chiatta, e poco ce n'erano. Ma vicino a casa trovano tutto, ghiande, la carruba, perché ci sono gli alberi della carruba, cane, in terra, loro se la mangiano. In via Milano viene un pedice di Garruba. Cazzo, è un viale pieno. No, non lo so via Milano, però vicino a casa ce ne sono un paio di alberi di Garruba. E poi anche via Maldella ci sono gli alberi di Garruba, perché io mi ricordo che la ragazzina andava a prendere la Garruba. E un ragazzino si era messo sul muretto a raccontare barzellette, questo vecchio deve essere appesato che era Milano, gli ha sparato e l'ha ammazzato col fucile. Grazie, allora hai chiamato forestale o tanto Pindira. Beh, sicuramente lui ha detto che pensava, siccome erano andati due volte i ladri, si era armato di fucile, quando ha visto l'ombra e cose di notte, e loro erano seduti sul muretto a raccontare sulle barzellette, ma non stavano facendo male a nessuno. Che non si possono sparare qui, sai, fuori zona voi. Ma non andavamo lì perché c'era sempre di Caruba, ce la mangiavamo la Caruba, le noccioline, quelle americane che chiamavamo noccioline americane, che sono quelle bacche nere, ce le presi. Infatti, è così, sì, quelle con le bacche nere. Aspetta, è un coso proprio a fare il danno. La mangiava in tutto. Una volta c'era un amico mio, ma gli ha una di 10 bacche. Ha già schiacciato una cimice, quelle che fanno puzza. Mamma mia! In via Milano, giù in fondo dove c'è il rifornitore, lì vicino c'è giù, c'è una grotta nel pieno di alberi di Garruba in Chivi. Dove c'è Milano 26, dai? No, farà più su, rimane. Più su fa la curva, prima di arrivare al rifornitore c'è sotto c'è una grotta con l'acqua di una sorgente. E acqua buona. Aspetta, c'è la buona. Prima non stavo su a Rezzedu, io scendevo lì a prendere l'acqua per bere. Ma cosa c'è? Qualche fontana l'ho fatto oppure la devi prendere proprio da fiume? Un vascone c'è, grande, e scende l'acqua, scende. Ed era aperto a tutti prima. Poi il badone ha pigliato e ha recintato tutto quanto. Però già ci può scendere dentro. Ma se ti acciappa lì, sei in un posto privato, non puoi entrare. Ehi, aiuto un conveniente dentro io, entrando, bambì, e non ti dicono nulla. La casa dei padroni è giù, c'è in fondo. Io prima andavo verso Usino, si scende giù sotto la strada, c'è una casa privata e c'è una fonte che scende sempre l'acqua, ma fresca, solo che è lenta a scendere, ci metti tutto il giorno a riempire il bidone. E poi andavo a Florina, sì, a prendere l'acqua. Sì, anche salendo a Tempio c'è la fontana. C'è il rilancio, ce ne sono diverse fontane. Salendo a Tempio c'è la fontana sulla destra, sì, era giù. Sembra modulato. Ma accanto non è vero, io mi ci affoco qua. Io gioco i disabili, è caldo non io. Io a casa sto in modo alloggi. Allora io ho fatto un po' di addirittura di epatologi, tutto secco, le diete eccetera, ho messo fuoco, tu pensa, cacco pure, cacco mi siamo fuoco, per carità, non vedo l'ora di uscita. Occhio che il fuoco non si può accendere adesso. No, io posso accedere perché ho un pezzettino piccolino e poi c'è la pompa e l'acqua vicino, non c'è problema. Per legge, ma si possono fare i fuochi fino a settembre. Eh beh, me ne frego io. Chi è che sta meglio di me? Tony. Dimmi. Andate se a votare. No, io non ci ho votato. E tu, Tony? Io sì. Io sì che sono andato. Hai fatto il dovere di cittadino, anch'io sono andato. Sei di macchina per lui. Vabbè, te sei muovati sì. Tu è perché non pensi a tua figlia, perché se lei va a lavorare è il principale, la licenza è stata dovuta a causa e il pieno regola della legge, se non passa il sì, capito? Scusa, per se dici da tutti Landini stesso aveva firmato il contratto a 5 euro l'ora agli operai e avevo cancellato tutto, intanto non lo sarà come tanto quando ha superato il culo e sono contentissimo e c'è la motoschiaffa in culo sia Landini, la CGL e Gattamarosio Criminale della sinistra. Quindi, e perché quando ho messo io che stava il grimbato hanno chiesto ai cittadini italiani, agli italiani di fare un referendum, di abolirlo, un cacchio e e cittadinanza anche i negroni, ma che mi diceva culo? Sì, vabbè, io la pensavo tu, su, tu, io la penso così e sono andato a votare, poi chi vuole andare va, chi non vuole andare non ci va, comunque ancora non è detto nulla perché tutto oggi c'è ancora tempo. Neanche il 30% è andato a votare, deve superare il 50 più 1 e non è superato, credimi. E poi invece che va andare in Massalo. Poi vabbè, noi abbiamo detto la nostra, chi non ha votato è stato neutro. Allora, non deve dire che nessuno deve votare. Io ho fatto propaganda, ho parlato con molti anziani. Loro no, così, allora non ci vado a votare. E poco gente ho influenzato io. Oh, e infatti non vado nessuno, neanche pareti miei, nessuno. Così l'Italia va avanti. Un paio lo devi dare, io sì o no, io non ci dice di votare sì, puoi dire anche no, però devi andare. Vedi, non sei neanche intelligente Gianni. Allora, la fregatura del portaglio, vedi, non l'avete capito. Se io andavo, o votavo sì o votavo no, superavo il quorum, no, io non ci vado per niente, mi astengo, automaticamente non supero il quorum, hai capito? Quindi, è gente che non ha mai capito niente. Le imbecille che si cassava 2 milioni e mezzo di euro, Landini, non ha mai lavorato in vita sua, ma non si dà nella fame. Io mi sono pentito che non ho saputo che c'era Landini piazzatore la settimana, no, più di una settimana fa, anche se no avrei cantato 4 il pellegrino, ragazzi. vabbè, ognuno ha pensato di sotto lì. Comunque, se tu avessi votato no e avessi superato il sicuro, me l'avrebbe superato lo stesso e sarebbe stato no, però l'avrebbe superato in ogni modo. Cosa vuol dire? L'avrebbe superato. E invece non ci sono andato e c'era il culo, lui è fatto ce ne sono. Cosa mi ha fatto? Dico, ma con me, voi, a superare il culo di imbecille, ma lo tenate, e infatti si vede, caso sono anche governato a votare, e quindi io ho seguito a loro, perché giustamente sia così, e poi ricordo una cosa, che la Meloni ha tolto una legge a Salvini, una cosa sacrosanta, quelli che oggi da oggi che vanno a comprare la casa, immediatamente ripatriati, buttati fuori, non è come te prima che viene la sinistra e entrava le porci, cale porci e le maniali dentro, no, io ne ho visto troppe e bombate, allora niente, non ho mai votato, ricordi che a votare obbligatoriamente è quando è una cosa politica, cambiare il governo, allora si deve andare Gianni, non un referendum che ha fatto fuori un sindacalista più bastardo del mondo che c'è Landini, ma che se ne piglia il culo, che ne venga un infarto e muore subito. E meglio la Meloni, lasciamo perdere, va. Meglio la Meloni che pensa solo alle imprenditori e basta, la gente poveraccia la sta facendo morire di fame. Lascia perdere, non nominare nemmeno quella lì, perché quella dovrebbe buttarla fuori al più presto, perché sennò ci rovina tutti, c'è già rovinato. Oh, bella la sinistra, Gianni, se fare così, che ti ha chiuso in casa con la mascherina, la mostrava in bocca, se uscivi ti seguivi i carabinieri e ti ha fatto fare i vaccini, bella che ha ammazzato Medietti, brava la sinistra, molto brava. E mica la sinistra che ti ha fatto fare i vaccini, i vaccini l'hanno fatti fare dalla sanità, è normale che se c'è una cosa del genere, un'epidemia così, è normale che ti fanno fare i vaccini. vedi Gianni, che non si è aggiornato, cazzo mica la sinistra, e che cazzo c'era Governo, non c'era Speranza, e chi appartiene al PD, a io Gianni, si può pensare, è l'altro discorso, che non si può fare vedere con voi. No, con te che si può fare vedere, per carità. Tu dici, io non ho pensato di sopra, chiamo la qua, avanti, togli. Ma a me non mi succede di... non mi ponete in mezzo. Io faccio solo propaganda e buco. Sì, vai fatti. Ma... io, guarda, l'ho preso così. Ma Meloni ha più preso, vorrei cambiare subito, perché sta facendo un casino lento. Sta buttando tutti i soldi in armi per dare casa a quelli... e cose, e poi noi rimaniamo senza mangiare, capito? Sta promettendo, ha promesso tante cose e poi non le ha mai realizzate, ecco cos'è. Ha promesso un po' di roba, ma non ha realizzato nulla. Vabbè, ma comunque di politica cosa se ne può parlare, dai, fatto male a lanciare la pietra. Comunque, saluta per i demoni d'Italia, e poi vi dimmi. Sono presente di domenica che è... ci sono i bari degli anni 90, per i punti, lui, un po' di divertimento, cazzo, non da solo, una volta, due anni fa, mi sono divertito un bel... Oh, no, non c'è che è andato più. Quando sono andato che c'era l'Italia giocata, che c'era cosa, Umberto Tucci, alle punti. Sei andato di saluti. Umberto Tucci non l'ho visto. No, quello no. Però ho visto a Porto Torre l'altro giorno a Corso. Ma diciamo che conoscevo due o tre canzoni, non di più. Ma io la notte stavo giocando l'Italia, che poi ha vinto, e c'era Umberto Tucci, quando ha finito la partita ha iniziato lui. Alla ripunti. Ma che una volta che ha vinto l'Italia? Sto mangiando. Mandi che avanti, che buon appetito. Vabbè. Sì, Alex Britti ce l'ha con Torres. Ma conoscevo giusto due o tre canzoni. Non è che mi è piaciuto tanto. Si è finita alle 11:30 il concerto, prima di tutti gli altri. Oggi finiscono mezzanotte e mezzo, l'una meno un quarto. E infatti dopo che è finito il concerto ci hanno detto... in piazza Garibaldi c'era la movida, c'era un complesso che suonava e cantava. Erano meglio qui di casa di chi si concerto male. E sei andato a Porto Torre a vedere un concerto? E allora, se c'era la festa valla, io vado quasi ogni anno, c'era la festa valla a Porto Torre. Non c'era Alex Britti? C'era Alex Britti, sì. E c'era Pomponio cantato. Cosa c'era? Pomponio cantato. Ah, cosa? Eia. Ma no. E con certo quello forse. Stava cantando stasera mi butto. Stasera mi butto con te. No, lo diceva, stasera mi smuccio. Non ci sei andato tu? Ma sta scherzando. Che ha messo la folla, che ci macchia, ma ho tenato, vai. Io vado alle pozze solitarie, belli. Un bel gelato e di mare. Faccio le gioca, Adesso bisogna mangiare quelle albicocche, ma così belle grandi, buone, saporite. Poi c'è il melone, quello giallo, buono. Ora per le salatine, qualche petto di pollo impanato e fritto, e poi un bel gelato. E tu dirà frutta. Io ho mangiato l'anguria, bella fresca. Ma ne sono comprato la metà però, perché una intera non ce la faccio mangiarmela così grande. No, io ce l'ho intera, l'ho presa, ma non quelle grandi grandi, io ho preso la Bibbia, ho preso quella rossa, pagata a due, messa in frigo. No, ma come tutto, ripeto, ce la posso. Poi, per carità, adesso da domani mi tocca travagliare, mamma mia, col caldo che c'è. Sai cosa c'è tu lì? Che quando la metà la vedi che è bella rossa e ti rendi conto se è buono, capito? Invece quando la prendi intera è una sorpresa. La perla nera è buona, che non c'è semi, oppure la cabina, ma ancora la cabina non è uscita, poi ti restano. E devo come un posto di cabina. L'ho preso anche io. Però adesso non lo so se gli anguri che ci sono di qua, non lo so, di fuori. Non ho idea di Oristano, c'è che è scritto. E lì a Normorea c'era il terreno suo. Quando c'è la macchia gialla vuol dire che è buona, quando c'è la macchia bianca non è ben matura nella buccia. Se mai la pelle nera di fuori ed è buona lo stesso, ma è cara, capito? No, ma ripeto, a me la frutta, specialmente l'anguria, mi piace un bel, il melone, quello giallo, quello fresco, è una cosa fenomenale. La frutta non deve mai mancare. A me nella frutta della verdura. E i gelati non devono mancare. E lo so che anche tu mangi gelati in ascolto. No, non le sto mangiando tu. Mi è venuta la tentazione oggi di comprare, però no, non la mangio solo per salire la glicemia. Adesso ce l'ho bella tranquilla, 130, 125 sempre. Se mangio gelato mi ammazza che l'impicco. Ma perché a me non mi sale questo gelato? Spiegami questo. Perché tu te la mangi uno, io ho una vaschetta. Poi gli sono dato a voce. Ah, un cornetto va bene, un bicchiere di gelato, ma non una vaschetta. No, già ne si mette un pacco dopo. Io sono ingordo, lo devo ammettere. Ma se mangio una tazza non mi va di nulla. Ecco cosa è. Se mangio un bicchiere non ti fa nulla, ma se ne mangio più di... Allora sì. Guarda, un bicchiere di plastica e riempio quello lì e mi basta, uno al giorno e sono a posto. Quindi la vaschetta è da un chilo e ci sono quattro gusti, ma pure veramente. Io l'opzione del gelato mi sono comprato lo yogurt e mangio quello e non mi fa salire la glicemia. E poi c'è tutto sotto di mani di pinguina che non uso. Ma no, non le sto comprando, io te l'avevo detto, non le sto comprando. Mi è venuta la tentazione oggi, poi sono andato a fare la spesa e ho detto no, non ho invito, se no mi sale di nuovo la glicemia di nuovo. E sono sempre regolare con la glicemia, capito adesso? Ce l'ho 120, 135 al massimo, anche la mattina, la mattina ce l'ho 330, 135. Se non mangi le cose che fanno male, non ti sale, capito? Dottore, non mangia già nei più gelati, però scende in Cesena perché sotto casa sua c'è la pizzeria. Se è pizzetta a taglio, se ne mangia tutte quante. Allora, quelle sto più prendendo, qui mangia le prendevo, quattro già me le mangiavo. No, non bisogna essere esagerati così. Uno basta, un cornetto, un massimo, una cosa del genere, ma no, quattro. Dopo due ore, poi la glicemia passa. Qui c'ho 30, 125, 128, da chi non lo fa. Io ricordo che la misura prima di mangiare e dopo mangiare dopo due ore. Io mi misuro anche 7-8 volte al giorno per affagassarmi, tanto. Di striscia non c'è quanto ne ho. Allora buona di Natalino, gli lanciate un po' di pungidito e strisce. No, io già so calmo. 112, 110, 117, il massimo che sto trovando. E qua, mi stavo chiamando, scusate. Io prima di averla così bassa ce l'avevo sempre alta la mattina, però poi ho scoperto che la notte, siccome viene la fame, mangio un pacco di cracker, roba così. Mangiando quello lì mi me la faceva salire, invece adesso non sto toccando più nulla e non mangia più. Oh, io la mattina quando me la controllo verso le 10 ce l'ho bassa, 89, 86, ce l'ho bassa, ce l'ho. Anche a me quei piccolini la mattina lo fa anche a me, però verso le 11. Verso le 11 io la misura ce l'ho 68, 60, anche più bassa. Oh, scusate, dai, che devo uscire un attimino, gente. Ci sentiamo, ciao Tony, ciao Gianni, ciao ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao Tony. E buon viaggio. Vabbè. Sai cosa c'è? Che quando non c'erano diabete non indicavo di uno. La vacca si è ridotta in una maniera proprio tutti i ramissuri. Mamma mia quanto mi piace il mulino. Ma sapete, io sono calorico, io sono andato a bere la glicemia. Tirami su, mi ero via, con tutta la roba che c'è, c'è chi ci mette anche il liquore, noi mettiamo a mare tutta questa roba, poi c'è gente che ci mette anche i liquori forti. Noi ci mettiamo un bicchiere di amaretto di Saronno e poi ci mettiamo il caffè per inzuppare i biscotti. Sì, ma io no, quando lo faccio no, non ne metto di qua perché i miei nipoti non ne mangiano se no. L'amaretto di Saronno non è un liquore forte, è il buon sapore, capito? Sì, ma non ne vogliono il liquore in mezzo, gli ha detto, non mi ci mettere il liquore perché se no te lo mangi tu con il vaso. A che tu guardi la missione? Un bel di volte ha già fatto, ma tante, tante volte. Se mi voglio la 50esima volta, l'ultima volta che l'ha già fatto. E la palla ce la metti? La? La palla con mascarpone, la mischi? Sì, ci metto la panna insieme al mascarpone, adesso ce n'è di più. È molto più buono così. Sì, infatti la faccio così, la faccio, per non sentirsi molto il sapore del caffè, perché a loro il caffè non piace. Ma il caffè a me non si tazzina le devi mettere. Non glielo faccio sentire molto il caffè, per quello me lo mangiano. Ecco cos'è. Ma la volta avrà già fatto a cappuccino. Fidala a me. Anche se mi un caffè, fidala a me. Non ti rilascio un pezzolino. L'altra volta siamo andati a mangiare a casa dei miei figli e cosa? Dice ancora ne vuoi? E me lo domandi, già lo sai, me lo stiamo solo mangiando con gli occhi. Cazzo, quanto è buono. No, io ho dovuto fare le cose della glicemia il giorno prima e domani mi era già mangiato. Come metti le cose della glicemia? Faccio il farlo il giovedì, me lo sono fatto il mercoledì per controllare la glicemia. Ah, io lo faccio sempre, tutti i giorni, prima di pranzo, prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena, tutti i giorni e prima di andare a letto. Ma tu te ne basano, a te te ne basano 50, te ne basano, a me me ne basano 25, fa 3 mesi. A me 100. Mi ha detto, a me non me ne baciano i usci, perché non ne ho bisogno, maledetto. Ma meglio così che non abbia bisogno, invece io faccio 4 sciolini e quindi lo devo fare, lo devo misurare. No, io me ne ha ordinato 25, me ne ha ordinato. Infatti anche questa dottoressa me ne ha ordinato 25, ma stesso. In base a quello che ti danno loro nel piano terapeutico te le danno, non te le danno né di più né di meno. Sì, infatti è così, il piano terapeutico è così, e così deve andare. Vabbè, loro devono aspettare il piano terapeutico, se no come se ne vuole niente, via. Se no non rimarrà di brutto. Adesso non mi ricordo se è il prossimo anno che lo devo fare, non me ne ammetto. A me quando vado in farmacia mi chiede se lo vedo tutto il materiale ogni volta. Così, tutto quanto. Se poi mi avanza a me, buono, perché magari in un momento che non ce l'hai fatto andare in farmacia, ce l'hai, capito? Meglio che a me che a loro. Ma mi sembra che a me mi ha fatto che si rinnova da solo il piano terapeutico. Si rinnova. Sì, adesso sì, si rinnova da solo. A meno che ti cambi qualche medicina, allora te lo rifanno nuovo. Ma ce l'ho anche con i medicinali, anche quello si rinnova da solo, si rinnova. A meno che non me lo cambia, non mi cambiano il medicinale. Ecco, allora me lo rifanno. È quello che ti sto dicendo, ma ascolti, sto dicendo quello io. Se cambiano medicinale te lo devono rifare da capo, perché per dire io avevo messo quello a fare al braccio, quello mi piaceva, gli ho detto che non ne volevo più. Dice come no? No, non lo voglio più, non mi piace. Me ne scende un caso, me ne scende tutto il sangue, poi lascia perdere. Ma io la signora ha agito, invece mi toglieva questa fastidia delle... sono a farmi visciare un bel... e invece non me l'ha voluta togliere. perché quella, se tu prendi la metformina, è un bel pericolosa, devi buttarla fuori, capito? La metformina fa male per il diabete e male per tante altre cose, quindi devi scaricare, se no ti rovina il rin. E ti hanno dato con la medicina per buttare fuori tutta la metformina che prendi, capito? Ma no, c'è bisogno, già da prima un bel di portico, con chi sei ancora peggio, con questa bacchiglia? Allora che tu abbia problemi alla prostata anche, boh. No, problemi alla prostata non ne ho, non c'ho nulla. So che mamma basta che becca un bicchiere d'acqua che subito 5 minuti se va andare in bagno. E quello succede a tutti. Perché è meglio che sia così, come metto, devi bere molto, molto, molto, perché la metformina se si ferma nel vento e rovina, quindi devi espellerla, tutta quella che prendi devi espellere. Sì, non basta che ciò che ci occupi pelli, certo. Ogni 10 minuti ci occupi pelli, sempre. Sì, anche il caldo adesso lo devi bere minimo 4 litri al giorno, come faccio io ne bevo anche 4 litri. Se me ne accorgo perché poi, non solo perché le butto via le bottiglie, me ne accorgo quando le ho bevute. No, io sto bevendo... Ho portato appresso una bottiglietta d'acqua, sai cosa mi dura? Manco una mezz'oretta mi dura, che me la vengo tutta canta. Allora l'addressata lo viene benissimo, io all'ospedale mi avevo fatto portare quella la diritti, perché a me quella normale piccolina non mi bastava niente, quella diritti ne finivo due al giorno. In macchina io quando esco c'ho 4-5 bottiglie mi dentro, c'ho un frigo piccolino, c'ho 4-5 bottiglie ne metto. Sì, ma basta mettere nel freezer, farli uscire il ghiaccio, col caldo si scioglie e c'è la bella fresca. Già ho fatto io l'impianto, sono portato e mi ho messo un frigo piccolino, mi ho messo. Ed è sempre andendo, l'ho preso. E dove l'ho messo questo frigo qui? Nel cofano ce l'ho, dietro nel cofano. Infatti i meni budi non sanno che io ho l'acqua appresso. No, c'ho 7, aspetta. Mi sono confermato, ci metto il cofano, ci metto il frigorifero. Aiutare da te l'acqua fresca. Ma il frigorifero è tipo quello al mare? Un frigorifero piccolino, eh. Ci ho comparato. Ti ho pagato 80 euro quasi. Ma la forma come con quello al mare c'è appena sotto. Oh, parole. Seglia. Ho detto la forma come con quei frigoriferi che porti al mare, di quelli che c'è appena sotto. No, è presente il frigorifero di casa, è in miniatura, ce l'ho. E cosa ci sta dentro? Bottigliette? Bottigliette d'acqua, bottigliette di Coca-Cola, qualche bottiglietta di birra. C'è il frigo portatile, che c'è? E vado dove ci vuole. L'altra volta che andavo andato a Platamona, che c'erano mio genero, mia figlia e i miei nipoti. Ma sai che devo andare a prendere l'acqua al mare? Ha detto, che te la do io. Ha detto, con un frigorifero dentro. Comodo così. E lo vedo che è comodo. E non sai pagarla. 50 la bottiglietta piccolina di acqua, cazzo. Ma che 50 negozio non paghi? Papà, 2,50, ha fatto un torre sui panini, 7 euro alla pesavalla, le locali, le pizzerie. Facevano i panini con un viuster, ma con ketchup mi hanno messo, 7 euro. Cazzo, pensa un po', ladri. Vai, vai, non esali fa che ci banini. Chi ce la rifai mia e a furà. Due bottigliette di acqua, 5 euro. Bene. Poi ci abbiamo bisogno che andato che stanno. Ma io ci vado per prendere un po' d'aria, a volte vado anche per vedere le comprese, poi a me mi piace la movida, mi piace andare a ballare e cose. mi piace girare, dai, sono tipo pipistrello io, mi piace girare di notte perché c'è fresco e sto bene. Dove va andare mi stasera? E invece mi migliora accompagnato a bambina a coso per studiare musica. Ma ancora non si è vista. Pensa un po'. Ma no, devo andare a Pordotto. A Pordotto c'è stasera, devo scendere, alla coso, alla frittura. Oh. Lo sai che l'ha detto arrivederci. Oh, però lasciami lì. Ti farò pagare adesso, non te l'hanno più grazie. Anche se vuoi pagare il pescareccio, se vuoi pagare, va. Ma sai che c'è tutto un pescio che ha nemmeccato le musiche in friggere, da quelli lo cavallero friggere e lo tagliano in massone. Sì, il pesce congelato, che congelano quando la pescano molte cose, e poi non te lo fa la pesca. E allora, è così. Ah, non è più come una volta, no. Una volta sì che era buono. Una volta l'ho preso, mi hanno dato un panino, non mi ricordo se era acqua o vino, che mi hanno dato un bicchiere e un po' di frittura. E questa frittura, calamari non se ne vedeva, si vedeva solo la farina dei calamari e basta, non veniva dei calamari. Ma che un calamaro buono era l'ultimo, robone, ecco cos'è. Lo sapevi quello che lo mettevano all'ultimo? Lo so perché ho fatto anche servizio lì col Ciso, no? L'ho fatto quando lo davano gratis, ma adesso gratis non è dato di più. E poi lo facevano al porto, adesso mi pare che lo fanno all'Arena Rita. Sì, l'hai già andato all'Arena Rita, non lo fanno più al porto. Io andavo quando ero al porto, capito? C'era quella padella grande grande e poi ci mettevano con lo stesso olio, facevano fritture 50 volte. Io quando mi hanno chiesto di dargli una mano quelli del portatore delle cose con al servizio, ah, poi a ultimo ti davano il piatto con i calamari, ti davano e va bene più farina che calamari. Sì. No, abbiamo mangiato noi, i calamari veniranno un bel fatto mi abbiato. E lui, perché allora lui quando faceva i servizi ai punti che c'era la favata, che distribuivamo le fave, le piatti e cose, quando ce l'andavamo ci regalavano una pentola, ci potevamo una pentola vuota, ci regalavano una pentola di favata. E in più vino, di chi si vuole, vino, perché c'è gente del Varese, del Comitato, e quello ha fatto un vino buono. E poi ce la mangiavamo al Ciso, facevamo magari una cena, la scaldavamo e ce la mangiavamo la favata con il vino. A Canica, ma in senso ci seguono quando facevano la favata? No, a Canica mai. Santo, come si chiama la sorte di carica, ma Santa Lattura. Io scendevo perché c'era colleghi di lavoro lì che facevano la favata. Ma la base arrivano a vino, un piatto, un bicchiere di vino e a pusso. E un pezzo di banino. Mi sono mandato. Ma si muove nell'albero in mezzo, a me l'albero mi piace. Mamma quando la faceva ci metteva zampe di maiale e roba così, però l'albero non le mettevo. No, se vuoi mettere lardo mettevi lardo, io so che loro mettevano, oltre al lardo cioè, mettevano piedi di maiale o di cosa anche di bue, ci mettevano in mezzo, che la gioco di un bel busci. Io senza mangiare pomaccia sono non un bel ma un bel barone, non ne ho più mangiato. Allora, sua cosa, la sua usi, l'ultima volta l'ho mangiata io, la favata, che l'avevano fatta. Io lì ho mangiato la mazza a brissa. Dove? A usi, hanno fatto la mazza a brissa. Ah, io sei vero. Poi io... sono con mangiata in un paese, l'aveva mangiata, scatta ma l'hanno fatta così buona, mentre è coso. Era buonissima. E più c'erano gli asparagi fatti al cartoccio, e poi c'erano gli gnocchetti fatti con il sugo di cinghiale, perché siamo andati a Calice di Stella, capito? E praticamente si pagava per fare 15 euro e mangiava e beveva quello che voleva. Quello io le cose, i gnocchetti con i... con la cosa di cinghiale io l'ho mangiati a Morris, l'ho mangiato. Ah, fatti proprio a rasarla, Eppure questi erano buoni, erano proprio saporiti. Erano buoni davvero. Ho mangiato anche un massone, qui all'uscita c'era una pattuglia della polizia stradale che ci faceva l'arco test, no, se tu volevi farlo lo facevi prima di metterti alla guida per vedere se eri in grado di guidare. Io l'ho fatto e a me non mi hanno acciappato nemmeno arco, capito? Però io avevo fatto il fondo, avevo mangiato prima delle uova sode che c'erano, poi ho mangiato gli gnocchetti e poi ho bevuto e quindi mi ha assorbito, capito? Ti ha assorbito tutto. Ogni volta che andavo dopo da cosa meno non mi faceva nulla, non avevo bisogno di farle. E all'uscita di Ussi, quando ce ne siamo andati, c'erano le pattuglie che tu dovevi passare all'interno, praticamente per fare zig zag tra una pattuglia e l'altra, ce n'erano un bel di pattuglie e hanno sequestrato un bel di pattuglie, ci fermavano a tutti. A me mi ha visto quello lì che mi ha fatto misurato con la contessa, però a lui lo facciamo andare che l'ha già fatto la contessa tranquillo e l'hanno fatto andare via. Tutti gli hanno fermati, più di 20 partiti hanno sequestrato. Pensa un poco. Vabbè già, io me ne so candelle la mia Basiglia. Ci risentiamo, non so domani, non lo so. Via della Bastiglia, vabbè sto, ci sentiamo, dai. Stammi bene, buonasera, dai, ciao ciao, ci sentiamo. Ok, altrettanto già, ci risentiamo alle prossime.